24 mattino. Rieccoci, 8, 19 minuti, 20 secondi, è giunto il momento dei cani e dei gatti. Io non vedo Oscar Giannino. Come non vedi Oscar Giannino? Non ti vedo. Ah, perché qui c'è... No, non mi sono, è disattivato, non ci avevo fatto caso. Caro fratello, adesso compaio, il tempo che parte il programmino. Però voglio dirti una cosa molto importante. Aspetta, noi dobbiamo cominciare. Vai, cedo. Mi arrendo. No, è che cediamo insieme, ma noi siamo proprio fratelli, no? Parti, dai, di. Allora, è sotto inchiesta di nuovo per mafia. La coalizione ha 100.000 problemi. Gli chiedono degli impresentabili, ma Silvio Berlusconi soffre e dice: ormai il Milan, quando lo guardo in TV, sto male. Ma è, che devo dire, l'eternità è un'immagine ferma nel tempo. Fantastico. Nega la diacronicità. Berlusconi è sincrono, non è diacronico, capisci? È una sfida. No, questo è vero. Ma in realtà è confermato da, lo sai che la fisica ci pone un grande problema. È accusato di essere mandante delle stragi, dice, quando guardo il Milan in televisione soffro. Del resto io ti dirò che volevo appunto iniziare con un tono compunto, perché oggi tu lo sai che nel calendario liturgico è la festa dei politici. No, lo ignoravo del tutto. Ma perché oggi il 2 novembre è la festa dei morti, è la commemorazione dei defunti. Oddio, populismo! Ma che populismo? Populismo da quattro soldi! Mi hai servito un piatto d'oro, Berlusconi eterno. È una grande cerimonia barocca la politica. Sai quelli che con, prima del Ku Klux Klan, quelli con i cappuccini. L'hai detto una cosa proprio da acchiappavoti da guardare. Ma che cos'è acchiappavoti? Io non devo prendere voti. No, lo dico. Loro sono scassaconti. Ma guarda sui giornali di oggi, guarda la meraviglia. Berlusconi che annuncia le pensioni minime a 1.000 euro, quindi da 516 a 1.000 euro, raddoppio. Il PD che sposa la tua linea, tu sarai contento, e chiede il blocco dell'aumento automatico delle pensioni, per essere chiaro. Renzi che annuncia 5 anni di deficit al 2,9% del PIL, 50 miliardi. Un governo di scassaconti ci aspetta dopo le elezioni, e naturalmente, cari ascoltatori, pagherete voi. Pagheranno le prossime generazioni, perché il deficit e il debito sono questi. Ma posso, come vedete, più sono scaltro d'accordo. Di te, più cinico di te. Perché dicono tutte queste cose ora, un minuto dopo il voto, le promesse saranno abbandonate. Ma io me lo auguro, perché queste non sono promesse. Questo è come dire avanti sull'iceberg a tutta forza, roba da matti. Senti, hai visto che ha lasciato il ministro della MEI, eh? Ecco, sì. È una cosa straordinaria di che cos'è l'Inghilterra. Per una mano, attenzione, sul ginocchio. Ecco, è accusato di aver messo una mano sul ginocchio, si dimette. Ma io voglio espatriare, voglio la bandiera britannica qui sulla mia testa. Ah, vedi che Brexit ti ha convinto. Ha messo la mano sul ginocchio, se ne va, senza colpo ferire, chiede scusa. Io ieri ho condotto con degli amici una lunghissima conversazione, una chat che condividiamo, perché si erano spaccati, come puntualmente capita a molti che stanno leggendo queste notizie da mesi, la lunga colla di Weinstein e quello che succede a Kevin Spacey e così via, dicendo, cioè, diciamo, c'è un fronte puritano che dice: finalmente tutto giusto, la gente parla e travolgiamo chi è scorretto. Sì. Dall'altra qualcuno inizia a dire: però un momento, aspetta un po', cioè, distinguiamo tra le improprietà, cioè l'abuso di potere, la violenza sessuale, eccetera, eccetera, e questa zona grigia in cui c'è consenso e, oppure si sta zitti per tanti anni e poi si levano premi professionali, cioè i premi di Kevin Spacey che vengono levati, cosa c'entrano con la vicenda di 30 anni fa da cui la cosa è originata? Bah. Ecco, e mi sono trovato e io ho dovuto spiegare a entrambi amici che la grandezza, ma insieme la consapevolezza, bisogna avere, della civiltà borghese dall'Ottocento a oggi, e sapere, a differenza tutte le altre civiltà precedenti hanno praticato la doppia morale, cioè pubblicamente c'era una morale o puritana o molto bigotta, eccetera, e poi si praticava la morale della forza nei rapporti di lavoro, nei rapporti sessuali, eccetera, eccetera. Però si fingeva di essere o ipercattolici, però la vera cosa era la forza. La grandezza della città borghese non è quella di aver superato questa idea di contrapposta, ma di sapere che ci sono entrambe le cose, che sono entrambe le cose combustibili del motore, e però è un conflitto risolto. Perché io ti dirò che inizio a pensare in molti casi, per esempio, che l'eccesso di puritanesimo dichiarato in pubblico ex post è un'ipocrisia allo stato puro. E però so che noi viviamo in questa grande contrapposizione tra il borghese realista, virtuoso, calvinista, puritano, e poi il capitalista borghese, che in realtà è il greed, la fame, il sesso, il potere. Sottoscrivo tutto e voglio dire anche una cosa di più. Dustin Hoffman, no? Tu ti vai a leggere letteralmente, Oscar, che cosa ha detto questa attrice, e lei dice: ho amato le sue attenzioni fino al momento in cui mi sono sembrate piacevoli, ne sono state lusingata. Nessuno è bravo, buono o cattivo al 100%. Dustin Hoffman è un maiale, ma io lo amo. Beh, ma allora non è una molestata, è una corteggiata con cui al massimo non si è quagliato. Cioè, qui quando una dice che è amata e si sente lusingata, le piace, e poi a un certo punto questa cosa, che non è uno stupro, è un taccheggiamento, se vuoi, un tacchinamento, non è una molestia, e allora forse qui non siamo nella fattispecie della violenza sessuale, siamo nel campo del corteggiamento andato naturalmente male. Nel dire questo bisogna essere consapevoli che si finisce pressoché automaticamente da parte di alcuni per essere incasellati come: ah, siete conniventi amici con chi abusa del potere. No, sì, vabbè, ma no, noi, io distingo nettamente tra ma chi è abuso di potere. Qui non c'è violenza. C'è una donna che dice: mi piacevano, mi lusingavano le sue attenzioni, e poi a un certo punto se ne è seccata. Ma quante volte capita? Chiamiamo il femminaro, solo dal punto di vista letterario, Pietrangelo Buttafuoco, perché lui è l'autore di Fimmini, un libro in cui raccontava molto del rapporto fra i due sessi. Buongiorno Pietrangelo. Buongiorno, ma credevo mi chiamaste per la Sicilia. No, ti chiamiamo per la Sicilia, no, solo che certo. Arrivi dentro questo mood. Il pretesto letterale. Ma Pietrangelo, del resto ti potremmo chiamare su qualunque argomento. Vabbè, io dichiaro il mio conflitto di... Dichiaro il mio conflitto di interesse. Io ho lavorato per alcuni anni. No, ho lavorato per... Sì, però per certi versi sì, spiego come. Spiego no, bravo, perché per alcuni anni abbiamo lavorato come compagni di banco al Foglio, e sicuramente con le mie idee l'ho molto molestato. Ma lui, che ne aveva di altre, ma letterariamente e umanamente esposte con una roba che mi ha letteralmente conquistato, io ho scoperto una persona straordinaria, io lo molestavo perché io facevo il rigoroso, capisci, mercatista, tacceriano, reganista, e lui, con insegnandomi la superiorità della civiltà maggiore, mi degnava queste battute, questo sorriso di comprensione umana. Io lo so che sei inferiore, caro Oscar, ma ti voglio bene lo stesso. Pietrangelo Piazza per me Capranica, è questo. La prima sede del Foglio, un periodo d'oro, forse Oscar aveva ancora i capelli, Pietrangelo, sì e no, ma comunque vabbè, sì, non era la pelata di oggi di sicuro. Ditemi allora, parlaci della Sicilia, che ormai è il romanzo nazionale, ormai seguiamo tutto, i dettagli, i piccoli impresentabili, gli aspiranti bruciatori, insomma è interessante, la tua terra è diventata patria della nazione in queste ore. E anche lì, se ci pensate, è tutta una questione di maschile e femminile, anche cioè, lì è una questione totalmente erotica, ed è quello di portare a compimento un eterno desiderio, che è quello di una terra che dove si sa anche le pietre sudano, dove si sa che attraverso gli scuri chiusi alligna il desiderio, e l'espressione politica viene a essere celebrata nel momento in cui la si conquista e scatena una dinamica politica irresistibile, irrefrenabile. Non ci si è scostati di un attimo da quella che era una volta, ricordate, al tempo del Vespro, un tutto, com'è che dicevi tu, un tacchinaggio? Insomma, una molestia, ecco, tutto ritorna, badate bene, nel momento in cui al Vespro, proprio quando ci si porta a messa, un soldataccio francese va a molestare una onesta ragazza di Palermo, e da lì, nel difendere le virtù di questa ragazza, comincia quella che fu l'unica grande, vera guerra di conquista della dignità per i siciliani, cioè la guerra del Vespro, quando vengono cacciati gli invasori e finalmente comincia una stagione, quella sì di vera indipendenza, quella sì di vera libertà. E tutto nasceva proprio perché bisognava difendere la dignità di questa terra, cose ormai lontanissime dalle giornate di oggi. Allora, il tuo libro è schizzato in classifica in Italia con un titolo, diciamo, un po' provocatorio, Strabuttanissima Sicilia. Ma che cos'è? Un'invettiva? È un pamphlet? Che cosa hai scritto? Cosa hai affidato a questo libricino caustico? Ho affidato a questo libricino la considerazione sulla realtà delle cose. C'è un buco di bilancio spaventoso, il Presidente della Corte dei Conti l'ha impugnato, il bilancio della regione siciliana, non c'è possibilità di andare avanti e siccome è finito il tempo e siccome non si sono trovati i soldi, a giugno 2018 questa terra col suo misero bilancio regionale verrà definitivamente commissariata, non ci sarà la possibilità di governarla, chiunque vinca avrà una vittoria inutile, non avrà la possibilità di poter mettere mano neppure alla carta bollata per avviare il minimo. E il libro l'ho scritto proprio osservando da vicino e cercando di portare alla conoscenza di tutti una realtà dove l'unica espressione che ti viene pagina dopo pagina è dire porca miseria, è vero, è così, porca miseria, è vero, così. Non ho voluto usare l'altro intercalare a tutti noto, proprio perché questo elemento maschile e femminile che si contrappone nella mia Sicilia, e cioè di vedere questa terra bellissima, meravigliosa, però ricondotta alla dimensione della strabuttanissima. Ora che ci pensi, in America sarebbe censurato questo titolo, giusto Oscar? Ah, certamente, perché violerebbe il codice del puritanesimo pubblico dichiarato, dietro il quale naturalmente il codice è tutt'altro. Ha scritto Francesco Merlo sul Venerdì, e lo abbiamo avuto anche ospite qui, cioè ha raccontato che è anche una sfida fra Sicilia orientale e Sicilia occidentale, no? Micari, il candidato del PD di Renzi, e Palermo, Musumeci, Fava sono la Sicilia orientale ovviamente, e Cancelleri, facci l'identikit dei quattro principali contendenti. Alla buttafuoco. Dunque, il primo che hai citato, strabuttanissimi candidati. Il candidato di Matteo Renzi è quello svantaggiato, nel senso che è un signore che si è ritrovato ad essere candidato, forse colto, catturato dalla vanità, cioè quello di ricevere le telefonate di Renzi o di Maria Elena Boschi, e quindi è stato tratto in questa trappola, non ne verrà fuori. Sono personaggi che poi, meteore, che vivono una stagione minima, quella di una campagna elettorale, che verranno cancellati. Cancelleri. Cancelleri e Musumeci sono i veri sfidanti in questa tensione. Fammi finire sulla sinistra, lì ovviamente vince Claudio Fava, nel senso che è quello che ha condotto una battaglia all'interno della sinistra robusta, importante, soprattutto si è affermato cancellando molti pregiudizi, è una personalità che non corrisponde all'identikit dello squinternato rivoluzionario, dell'estremista, non c'entra niente con tutta quella estetica spessata della sinistra, quella che abbiamo imparato a conoscere in Italia, e poi radicato nelle vicende vive della Sicilia, subito, senza essere pittoresco come l'antimafia di Comodo, dei Crocetta e compagnia. Poi oltretutto Micari veramente si porta l'eredità di Crocetta, ed è ben pesante. Ma dici Cancelleri e Musumeci, e lì non si capisce chi dei due andrà a vincere. Ecco, lì sono sul fil di lana tutte e due. Poi una cosa da dire, che per la prima volta ci sono dei candidati alla presidenza della regione che sono tutte persone per bene. Una cosa che ti piace di Cancelleri e una che ti piace di Musumeci, oggi siamo buonisti. Ma che ne so, una domanda difficile. Esatto. Vabbè, addirittura sei cattivissimo. Però posso dire una cosa, sì, che non c'entra niente. Dilla. E soprattutto a Oscar, che queste cose le frequenta. Sentivo voi discutere su questa questione degli sporcaccioni, no? Sì. Oscar, come le frequenta Oscar? No, frequenta Augusto del Noce, questo vuol dire. Grande Augusto del Noce. Sto dicendo questo. Augusto del Noce diceva che la Chiesa, lui che era profondamente cattolico, certo, lui che era un vero credente, una persona rispecchiata addirittura morale, diceva la Chiesa vedrete che cadrà sulla morale sessuale. Invece paradossalmente mi sembra che l'altra Chiesa, quella più potente, quella invincibile, quella inesorabile del politicamente corretto, dell'ideologismo puritano, ecco, sta andando a crollare sulla morale sessuale. Questa è la nemesi. Fantastico. Teologicamente, ecco, l'astuzia della bellezza di Dio supera tutte le porcheriole della, vedi, presunzione dell'umanismo. Questa finisce tu, dritta nel, ma tu capisci nel perché io avendocelo a fianco poi alla fine mi sono arreso, perché certo, capisci la vendetta teologica, vedere la vendetta teologica nel, come succo della vicenda della mano sul ginocchio del ministro britannico. Io pubblicità, trovo che sia grande. Mattino. Ed è qui in arrivo fra di noi Giorgia Meloni alla corte dei cani e dei gatti, perché ovviamente il conto alla rovescia sulla campagna elettorale ci porta a sentire in un ultimo giro destra, sinistra e tutti quanti. Oscar, eccolo! Dai un altro graffio, dai un graffio. Dai, ma l'hai visto questo? Oggi facevi tutte le fuse a buttafuoco, dai. No, ho capito, ma io e Pietrangelo siamo amici, che si può pensare diversamente. È arrivata la Meloni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ma che cos'è questa guerra con la Raggi, che canta in consiglio comunale Bella Ciao, le espropria la sede del movimento, aspetta, sociale? Aspetta, saluti alla bimba innanzitutto. Sì. Ma noi volevamo sentire lei. E ho capito, però Meloni, abbiamo sentito la bimba. Giorgia. No, volevamo sentire la bimba. La situazione è un po' tragica stamattina. Un attimo, vai, vai, vai in diretta. Ecco, allora dicevo. E come l'ha risolto? Una guerra, io direi semplicemente. No, scusi, che... Giorgia, improvvisamente la bambina è. Perché è la mutita. Mamma l'ha preso in braccio. Ci siamo preoccupati. Esatto. La mamma è. Su, Luca, ma si vede che non c'hai più pratica con queste mamma cose. Mia, si vede che lei, il padre di lei, se l'ha fatto un po' così, perché. Il mio non piange mai. Mai, mai. Va bene, sì, comunque abbiamo risolto momentaneamente finché mi tiene il braccio. Allora. Santa Ginevra. Non c'è nessuna guerra con la Raggi, direi semplicemente che la Raggi, che è un sindaco ridicolo, eccola, ridicolo soft, di una sempre giunta ridicola, abbia, diciamo, superato ogni limite della furia distruttiva rappresentata dal Movimento 5 Stelle con questo esempio della vicenda di Colle Oppio. Colle Oppio è in buona sostanza una sede in un rudere, in pratica, che sta proprio a margine del Colle Oppio, in uso alla destra italiana dal 1946, è una sede che fu aperta dagli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia, che in questi 70 anni ha attraversato il Movimento Sociale Italiano, Alleanza Nazionale, oggi in uso a Fratelli d'Italia. Sia chiaro che è un locale che non potrebbe, essendo inagibile da tutti i punti di vista, è un rudere, come abbiamo detto, non potrebbe essere utilizzato né a uso abitativo né a uso commerciale, perché è fuori da tutte le norme. Quindi la Raggi oggi arriva e, siccome domenica si vota a Ostia e lei sta molto in difficoltà perché la sua pessima amministrazione si ripercuote sulla campagna elettorale del 10° municipio, allora lei, avendo paura di perdere, avendo invece noi come Fratelli d'Italia una candidata molto capace che si chiama Monica Picca, che è un'insegnante, che ai grillini li fa un pochino tremare, allora la Raggi ha pensato bene, a 3 giorni dalla chiusura della campagna elettorale, di mettere i sigilli a questa sede, sostenendo in buona sostanza che l'esempio di Colle Oppio fosse uno degli esempi della, diciamo, del patrimonio residenziale romano, che bravo, di Affittopoli. Cosa che ovviamente non è, primo perché la Raggi sostiene che questa sede sarebbe morosa dal 72, il che è completamente falso, tant'è che la stiamo querelando, ok? Primo. Secondo, ripeto, quella sede non potrebbe in ogni caso essere utilizzata per nient'altro. Quindi, che cosa accade? Cosa sarebbe accaduto? Che se non ci fosse stata la sede del Movimento Sociale Italiano, di Alleanza Nazionale, della destra italiana in questi anni, che ne ha fatto anche un presidio di socializzazione e di legalità, e semplicemente va bene, quel rudere, come il resto del parco del Colle Oppio, sarebbe stato un bivacco per spacciatori, immigrati clandestini, sbandati e compagnia cantante, che è esattamente quelli per i quali la Raggi fa politica, per aiutare questa gente. Però non dopodiché nasconda che c'è una sfida anche personale, no? Perché la Raggi in quel messaggio su Facebook ha detto mi viene da ridere, questi partiti, lo dice proprio quasi con disgusto, non pagano l'affitto al 72, lei in consiglio comunale le fa l'opposizione tutti i giorni, c'è una disistima personale fra voi due, perché negarlo? No, ma guardi, io non personalizzo mai, segnatamente, Telese, se mi posso permettere, queste rivalità fra femmine le trovo proprio stucchevoli, molto, no, diciamo, politica, rivalità politica, disprezzo politico. Io non ho alcuna rivalità con il sindaco Raggi, io penso semplicemente che il sindaco Raggi sia il peggiore sindaco della storia della capitale, e penso che questa furia, ripeto, distruttiva che sta dimostrando, questo odio, questa cattiveria, che i 5 Stelle dimostrano a 360 gradi, voglio dire, non le sfuggirà che domenica si vota per le elezioni regionali siciliane, oltre che per il decimo municipio, e c'è l'assessore designato del candidato alla presidenza del Movimento 5 Stelle che su Facebook ha scritto di Rosato, quello che ha scritto la legge elettorale o che ha dato il nome alla legge elettorale del PD, quindi non un amico mio, io ho contestato la legge elettorale, Rosato ti bruceremo vivo. E Cancelleri, il candidato del Movimento 5 Stelle, quando questa roba è uscita ha detto no, io lo confermo assessore, certo che voglio fare. Lei l'avrebbe buttato fuori? Sicura? Ma ragazzi, mi pare il minimo, o almeno lo butti fuori, ma insomma non lo designi assessore uno così. Oscar, noi mettiamo a guidare una regione a uno che dice ai miei avversari politici, se non li siccome non condivido quello che fanno li voglio bruciare vivi. Ma vi rendete conto a che livello di impresentabilità? Ecco, tanto perché nelle elezioni siciliane si parla dell'impresentabile arrivata la politica italiana, questi sono impresentabilissimi, perché la classe politica, la classe dirigente, se non capiscono la responsabilità di dover stare, diciamo, un passo avanti per dare anche, per essere anche un po' una guida della società, e qui ragazzi va tutto allo sfascio. Allora, il tema di Colle Oppio mi interessa chiaramente molto per la storia della destra italiana, ovviamente la Raggi, affronteremo la cosa sia in sede politica che in sede giudiziaria, per quello che la Raggi ha detto su questa sede, che tutto è falso perché non sa di che parla, però lei capisce la vergogna di una roba che tu la levi ai tuoi avversari politici, che comunque per 70 anni ci hanno costruito sopra una storia, come se niente avesse più un'importanza, niente avesse più un senso, come se le idee non contassero niente, come se i sacrifici delle persone, Telese, fu segretario di Colle Oppio un ragazzo che si chiamava Stefano Recchioni, che fu ammazzato negli anni 70. Ok? Allora, certe cose hanno un valore e quando le tocchi lo devi fare in punta di piedi. Non che, tra l'altro, segnalo, i responsabili della sede, oggi di Fratelli d'Italia, ma prima di, come abbiamo detto, insomma, di tutti i partiti della destra, più volte hanno scritto il comune per dire, signori, rivediamo i canoni di locazione. Va bene, però non parliamo solo di questo, l'abbiamo detto. Sono due giorni. Vediamoci e troviamo una soluzione, no? È chiaro. Darla adesso agli spacciatori. Allora, 800 24 00 24, Oscar. Ma allora, una veloce incursione nella campagna elettorale, nel futuro politico della vostra alleanza di centrodestra. Dalla Sicilia entrambi, Berlusconi, a distanza di poche ore, Berlusconi dice, praticamente l'intesa con Salvini e con la Meloni è fatta, ci vedremo, parleremo anche dei posti di governo. Salvini gli risponde subito, immediatamente, ma di che cosa parli? Di posti di governo con me, per favore? Mai. Quanto è recita, quanto è realtà? Ci dica però. Non abbiamo mai parlato effettivamente di ministeri, di governi, abbiamo parlato ormai molto tempo fa in maniera molto, diciamo, veloce di programmi. Io penso che in ogni caso, senza parlare di posti di governo che non interessano nessuno, men che meno adesso, bisogna invece parlare di quali siano gli elementi sui quali costruire una coalizione di centrodestra che può essere vincente in Sicilia questa domenica, a Ostia sempre questa domenica, e per le elezioni politiche del prossimo febbraio-marzo. Ma le elezioni politiche, Salvini ha detto, se poi c'è l'effetto che bisogna fare un governo col PD, se lo vota Berlusconi, noi gli eletti della Lega non lo votiamo. I suoi? Questo mi pare evidente, insomma. I suoi pure? Guardi, devo segnalare che allo stato attuale è l'unico partito di tutto l'arco costituzionale che non si è messo mai seduto al tavolo con Renzi per trattare niente, legge elettorale compresa, siamo noi, eh. Quindi voglio dire, gli italiani sappiano che se votano Fratelli d'Italia hanno la garanzia matematica che noi non trattiamo con matematica, niente, non abbiamo trattato neanche sulla legge elettorale. No, ma dopo trattereste, votereste un governo comune contro i 5 Stelle? No, io con Renzi non voto niente. Renzi, la sinistra sono nemici dell'Italia. È gente che in questi anni ha fatto gli interessi di tutto fuorché del popolo italiano, e io che vorrei invece un governo di patrioti, cioè un governo che dica adesso basta, si fanno gli interessi degli italiani e dell'Italia, questi qui non li voto mai. Ma io penso che facendo qualche sforzo, perché la legge elettorale insomma è un po' così, facendo qualche sforzo ci siano le possibilità per mettere in piedi un governo frutto di una campagna elettorale fatta insieme, che poi dovrebbe essere diciamo la famosa sovranità. Allora, l'apertura attuale di Huffington Post: Trump a sorpresa, pena di morte per il terrorista di New York. Lei cosa farebbe, Meloni? È d'accordo? No, io sono contrario alla pena di morte, sono sempre per la sacralità della vita, dal concepimento alla morte naturale, quindi non sono per la pena di morte. Ciò non toglie che abbiamo un problema gravissimo rispetto al tema del fondamentalismo islamico e che non possiamo continuare a girarci dall'altra parte a fare finta che questo problema non ci sia. Basta con la propaganda islamica in Europa, basta con la propaganda islamica finanziata da nazioni fondamentaliste che noi consideriamo amiche in cambio di qualche Rolex quando i nostri governi li vanno a trovare, cit Arabia Saudita. Basta con le moschee abusive, basta con la tolleranza che diventa insicurezza per i nostri cittadini. Ci sono una serie di cose che si possono e si devono fare. Io voglio che sia chiaro, perché si deve dire anche questo, che non vogliamo il processo di islamizzazione dell'Europa in corso. Allora, un messaggio divertente, spiazzante: bisognava impedire a Virginia Raggi di cantare Bella Ciao in consiglio, visto che anche la Raggi proviene da destra romana. Lei cosa pensa della Raggi che ha cantato che Bella Ciao in consiglio? Che anche la Raggi viene dalla destra romana, ma lei cosa pensa della sindaca? No, però veramente la Raggi non viene dalla destra romana, non diamo queste informazioni assolutamente false e tendenziose. La Raggi ha dichiarato più volte di essere stata un'elettrice del PD. Ma cosa pensa di quella cantata in consiglio? Ha sofferto un po'. Più che fare. Penso che, diciamo, quando a sinistra, perché la Raggi... Lei ha detto che era stonata addirittura, no? No, non l'ho detto che era suonata, perché non l'ho sentita, diciamo, con la mia, non mi sono dilettata ad ascoltare Bella Ciao cantata da Aranci, insomma, c'ho meglio da fare. Però, diciamo, mi ha ricordato molto quella certa sinistra che quando sta molto in difficoltà ritira fuori gli arnesi di 70 anni fa, ecco, un po' ho come capito. Piano con la legge Piano sul fascismo, 3 anni se c'ha in tasca l'accendino del luce, la Raggi canta Bella Ciao e pensano di recuperare i voti così. Il bello è che non li votano più neanche quelli che sono stati sinceramente comunisti, perché sono uno servo del mondialismo ormai, e il PD del mondialismo, del capitalismo sfrenato, della grande finanza internazionale. E l'altro pure. Grazie. Mario da Bologna. Buongiorno, sono in diretta? Certo. Sì, quindi okay, si trattenga. Intanto complimenti per la frizzante trasmissione che ascolto tutte le salutiamo mattine. Giorgio Meloni. Lavoro. Ah, grazie. Volevo una curiosità e una domanda. La curiosità è: cosa ne pensa Oscar Giannino della fuga poco dignitosa di Puigdemont, che ha spazzato gli stessi partiti indipendenti e anche il popolo di parte? Questa è proprio dedicata a Oscar, che è sempre stato molto chiaro sulla sua posizione. E poi la domanda è questa: ma chi ha fatto credere, o cosa ha fatto credere a Puigdemont, di poter fare proprio adesso, in questo momento storico, questa azione così decisa? Lui è un personaggio incolore, è un personaggio modesto. Chi o cosa? Quindi il cui protest dov'è? Guardi, secco, grave errore di Puigdemont, credeva di sollevare l'indifferenza, di levare l'indifferenza europea e portarla alla propria parte. Doppio errore, perché doveva essergli chiaro che non c'era nessuna chance di fare questo. Ora farà né l'esule né l'ospite, ma semplicemente quello in fuga da un processo. Doveva invece capire lui e gli altri componenti della Generalitat che una battaglia di quel tipo si affronta anche facendosi mandare alla sbarra in vista delle prossime elezioni politiche. Sarebbe stato un problema molto più difficilmente gestibile per Rajoy e per la Spagna unionista. Detto tutto questo, cui protest, sì, Puigdemont si è fatto tirare per la collottola dai radicali indipendentisti, che sono sia di destra, perché l'evoluzione del partito di Mas e di Mas, di Arturo Mas, a frange di destra nazionalista catalana, sia dell'estrema sinistra chavista, quella di COP21. Duplice errore, perché arrivare a cadere nella trappola di Rajoy, che per 11 anni ha voluto questo, e cioè la trappola del sarcasmo, del ridicolo, ruolo e della fuga delle imprese e delle banche significa non sapere come fare politica con temi così incandescenti. Detto tutto questo, io non uso solo sarcasmo, perché Rajoy ha usato un cinismo a cui io non inneggio e non mi piace, perché l'estremista più radicale di tutti e il cinico peggiore di tutti si chiama Mariano Rajoy su questa vicenda. Non cambierò mai idea. Allora, messaggi: il debito pubblico è colpa della Raggi, questo è sarcastico ovviamente, ma se in Sicilia vincono i 5 Stelle la Meloni sosterrà Grillo, che Grillo ha creato la mafia, tutti paradossi molto seccati ovviamente alcuni ascoltatori da questa esternazione della Meloni. Oscar, mi è arrivato un messaggino al volo, vediamo se lo troviamo, di Francesco Mello, divertente sugli impresentabili. E Anna da Torino. Buongiorno, io sto telefonando a proposito della presa di posizione di Trump in merito all'attentato, e mi ha colpito il fatto che sono 8 morti, per carità, sono tanti, anche uno è troppo, si indigna per questo ma non si indigna per la lobby delle armi che causa una mattanza tutti i giorni negli Stati Uniti, cioè, quindi per me è un presidente ridicolo. Solo questo. Anna, le sa che rispettiamo tutti, però non mi faccia diventare trampiano. È ovvio che si deve indignare per 8 morti per strage di un pazzo fanatico che ha travolto delle persone che stavano andando pacificamente in bicicletta. No, ma lì c'è anche... Mi fate diventare trampiano! Ma lì credo che nella psicologia erratica del presidente degli Stati Uniti conti anche il meccanismo con cui è entrato negli Stati Uniti, perché il meccanismo della lotteria, agli occhi di Trump, che vuole abolire, se l'è subito presa con questo, e che in effetti è un po' bizzarro, diciamolo, della green card, dice: ma come, tu dovresti essere triplamente grato verso gli Stati Uniti, e così ci ti comporti. Ci per questo prima ha detto Guantanamo, poi ha pensato: Guantanamo, bella vita Guantanamo, no, tagliamogli la testa. È un personaggio un po' singolare, però pare che sulla Fed ci risparmia dei liri, perché rassicuriamo i nostri ascoltatori, pare che davvero si vada alla scelta di Jerome Powell alla Fed. È una scelta, per così dire, di una buona scelta. Io avrei preferito John Taylor, però è evidente che i militari intorno al presidente degli Stati Uniti lo trattengono da una follia, per così dire. Allora, Francesco Merlo, un telegramma, perché ha sentito quella battuta di Berlusconi che dice: se non vi piacciono gli impresentabili, non votateli. Buongiorno. È l'ultimo simbolo italiano, cioè, dopo i partiti di lotta e di governo, eccetera. Cioè, io ho messo in lista queste persone, però sono brutte, non votateli. Manca solo che dicano: non votatemi. Ce n'è qualcuno meglio di me. Cioè, però è abile, seconda, è abile, modo. No? È abile. E certo, è abile. Berlusconi è abile. Poi al Politeama ha ragione Giannino, lo ascoltavo prima, è veramente una scena barocca straordinaria della politica italiana, ed è al Politeama di Palermo, quindi è il Gattopardo che con qualche chilo in meno e qualche capello in più a 81 anni torna protagonista della vita italiana. Guarda, il grande scrittore della politica italiana è Aniello Bartoli, grande maestro insuperabile del barocchismo del 600 italiano. A riprenderlo in mano e a riprendere in mano i trattati sulla simulazione e dissimulazione si capisce tutto della politica italiana. Certo. Però, Francesco, hai un altro micro editoriale in due parole? E poi Oscar? No, la vicenda della Meloni e della Raggi, che si combattono, sì, l'una accusando l'altra di essere di sinistra e l'altra invece rivendicando anche essa fascismo. È una bella fotografia. È un perdersi, in posti impraticabili, perché la Raggi non è di sinistra e sicuramente non è nemmeno antifascista, però alla Raggi conviene essere antifascista in questo momento, perché Ostia prende qualche voto e la Meloni la aiuta in questo modo. Ultima paroletta di Oscar. Allora, viva Palomine, che ci ricorda che i curdi li abbiamo per l'ennesima volta utilizzati, questa volta contro l'ISIS, e adesso li stiamo dimenticando. E orrore per quello che Bergoglio nel 1985 disse contro Calvino e Lutero. Pensate, disse che soppiantava l'università del popolo di Dio con l'internazionalismo della borghesia. Ma roba da matti, roba da matti, papà Bergoglio, anche tu ho tenebrato quel giorno. Però evidentemente c'era un senso. Ma non diciamo scemenze, pura controriforma gesuitica. Viva Lutero, viva Calvino, viva Zwingli. Ora è sempre bergoglismo. Ciao, a domani, cari gatti.